Ciao a tutto, tutte e tutti, sono Tommaso Mori, mi occupo di fotografia e di comunicazione. Desideravo mandare un messaggio di supporto a tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà, sia nel proprio lavoro che nella propria vita personale, per il coronavirus e non solo, tutto quello che sta succedendo a livello economico, sociale, relazionale. Ho deciso di leggere alcuni estratti del Pensiero dei fotografi. Un libro di Roberta Valtorta, storica della fotografia, che ripercorre la storia della fotografia dalle origini ad oggi, passando attraverso le testimonianze di chi la fotografia l'ha fatta. Partiamo con Julia Margaret Cameron, Gli annali della mia casa di vetro, 1874. Desideravo fermare tutta la bellezza che avevo davanti, e con il tempo questo desiderio è stato soddisfatto. La difficoltà accresceva il valore del proposito. Iniziai senza conoscere nulla dell'arte. Non sapevo come posizionare la macchina, come mettere a fuoco il mio modello e con mia grande costernazione cancellai la mia prima fotografia sfregando la mano sulla superficie della lastra. Era il ritratto di un contadino di Freshwater che nella mia immaginazione assomigliava a Bolingbroke. I contadini della nostra isola sono molto belli, tra uomini, donne, giovani, bambini. Ho avuto dei bellissimi soggetti, come chi ama il mio lavoro sa. Ho trasformato la carbonaia in camera oscura e la casetta con finestre dove si tenevano i polli che avevo dato ai miei bambini è diventata la mia casa di vetro, il mio atelier. Le galline sono state liberate e spero e credo non mangiate. Il profitto che i miei ragazzi traevano dalle uova appena depositato venne meno. E tutti simpatizzarono anima e corpo con il mio nuovo lavoro, da quando la compagnia delle galline e dei pulcini si trasformò in quella di poeti, profeti, pittori e amabili fanciulle, tutti a turni immortalati nella piccola costruzione di campagna. Credo che, quanto il più giovane dei miei ragazzi, Henry Herschel, che ora è a sua volta un bravissimo fotografo, quello che mi disse sia vero, che i miei primi risultati ottenuti con le fotografie fuori fuoco erano un colpo di fortuna. Significa che quando mettendo a fuoco arrivavo a qualcosa che, secondo il mio occhio, era bello, mi fermavo, invece di continuare a cercare con l'obiettivo quel fuoco più definito sul quale insistono tutti gli altri fotografi. La simpatia personale mi ha aiutato moltissimo. Mio marito ha guardato con piacere ogni mia fotografia, dalla prima all'ultima, ed è mia abitudine quotidiana correre da lui con ogni lastra sulla quale una nuova gloria si è appena stampata. E ascoltare il suo applauso entusiastico. Con questa abitudine di correre in soggiorno con le lastre bagnate, ho macchiato con nitrato d'argento molte tovaglie di lino, macchie indelebili per la quale una famiglia meno indulgente della mia mi avrebbe cacciata. Il nostro più grande amico, Sir Henry Taylor, si è prestato grandemente ai miei primi sforzi. Senza alcuna paura di sembrare stupido nel farmi da modello, con la grandezza che è tipica dell'altruismo, ha accettato di essere di volta in volta Friar Lawrence con Juliet, Prospero con Miranda, Ahasuerus con la regina Esther, di reggere l'attizzatoio come uno scettro e di far qualunque cosa io desiderassi da lui. Continuiamo con Diane Arbus, Dichiarazioni, 1972. La cosa che amo di più è andare dove non sono mai stata. Per me conta molto anche solo entrare in casa di qualcuno. Quando viene il momento di andare, se devo prendere l'autobus oppure un taxi, è come se andassi verso l'ignoto. Mi fa questo effetto da sempre. A volte un sentimento di angoscia, Dio, è ora e proprio non me la sento di andare. Poi, una volta partita, in me qualcosa di molto importante prende il posto di questa specie di disagio, qualcosa che non è assolutamente possibile controllare. Se io fossi solo curiosa, sarebbe molto difficile dire a qualcuno: voglio venire a casa tua, voglio che tu parli con me e mi racconti la storia della tua vita. Mi direbbero: sei pazza. Sarebbero molto guardinghi. Ma la macchina fotografica è una specie di licenza. Un sacco di gente vuole molta attenzione per sé e questo è un modo ragionevole di dare attenzione. Al momento sono accolta molto bene. Io sono estremamente carina con loro. Credo di avere due facce. Sono molto gentile. Quasi non mi piaccio. Sono troppo gentile, è tutto un oh! Sento me stessa dire eccezionale e davanti a me c'è una donna che fa una faccia. Io voglio dire davvero che è eccezionale. Non voglio dire che vorrei assomigliarle. Non voglio dire che desidero che i miei bambini le assomigliano. Non voglio dire che nella mia vita privata vorrei baciarla, ma intendo veramente che è qualcosa di innegabilmente sorprendente. Cerco di descrivere il fatto che è impossibile uscire dalla propria pelle per entrare in quella di qualcun altro. Ecco quello che cerco di fare. Dire che la tragedia dell'altro non è la tua stessa tragedia. Un'altra cosa che una fotografia deve essere specifica. Ricordo che molto tempo fa, quando ho iniziato a fotografare, pensavo: c'è un'enorme quantità di gente al mondo e sarà orrendamente difficile poter fotografare tutto. Quindi, se fotografo una specie di genere umano generale, tutti potranno riconoscerlo. Sarà quello che di solito viene definito uomo comune. Fu la mia maestra, Lisette Model, a chiarirmi che più si è specifici, più si abbraccia il generale. È una cosa che va affrontata e bisogna veramente liberarsi da certe forme di evasione, da certe piccolezze. Continuiamo con Nan Goldin, La ballata della dipendenza sessuale, 1986. È il diario che io faccio leggere alla gente. Io ho un diario scritto, ma non permetto a nessuno di leggerlo. Questo, invece, è il mio diario pubblico. Il mio diario scritto è il documento di un mondo in cui non si può entrare. Il mio diario visuale si apre e si sposta dalla dimensione soggettiva e autoreferenziale grazie all'ingresso di altre persone. Gran parte del mio lavoro riguarda la qualità del rapporto tra me e la persona che fotografo. È una forma di collaborazione e vive di vita propria. A un certo punto c'era una serie di immagini singoli. Poi è diventata una proiezione di diapositive tra gli amici. Adesso questa proiezione ha un titolo e una sua logica. The Ballad of Sexual Dependency. Ha origine da una proiezione. Faccio fotografie della mia vita da quando avevo 16 anni. Ero ossessionata dall'idea di dover fotografare la mia vita. Il motivo più forte del mio lavoro è l'ossessione per la memoria. Sono diventata una fotografa seria quando ho iniziato a bere, perché la mattina dopo volevo ricordare ogni particolare delle esperienze che facevo. E così andavo al bar, scattavo e mi rimaneva una registrazione della mia vita. Vivevo con alcune drag queen e dunque fotografavo le drag queen. Non ho mai deciso che le drag queen erano un soggetto che dovevo fotografare. Il lavoro nasceva direttamente dalla mia vita. Sento il bisogno di ricordare tutto. La fotografia viene da questo bisogno. La fotografia procura i materiali per questo diario. Non è vero che il fotografo è un voyeur per la natura stessa della fotografia. Le persone che io ho fotografato a lungo sentono che la mia macchina fotografica è parte della loro vita tanto quanto ogni altro aspetto della loro vita con me. Quindi per loro diventa perfettamente naturale farsi fotografare. Smette di essere un'esperienza esterna e diventa parte della relazione, che viene intensificata dalla macchina e non disturbata. La macchina mi collega all'esperienza e chiarisce cosa sta accadendo tra me e il soggetto. C'è chi crede che il fotografo sia sempre l'ultimo a essere invitato a una festa, ma questa è la mia festa. Concludo con Jitka Hanslova, Nella foresta, 2005. Andai nella foresta, sulla collina, alla mattina presto, quando la foresta si sveglia. Stavo in piedi e respiravo nel vento, con le tranquille voci degli uccelli e il silenzio che amo. Poi, quando ero concentrata su una fotografia, mi fermavo ad ascoltare il silenzio. Era come se io fossi altrove, come in un film. La foresta iniziava a muoversi e quando guardavo in macchina provavo paura. Forse era ancora l'inquadratura e la calma della sera prima, come se gli uccelli e i grilli avessero smesso di cantare, come se nella valle il vento si fosse fermato. Niente di niente da ascoltare, niente uccelli, niente vento, nessuna persona, nemmeno un grillo. L'assenza di luce e questo silenzio mi facevano rizzare i capelli. Non sapevo dove fosse la paura, ma veniva da dentro. Era la prima volta che la sentivo così intensamente, ma non sarebbe stata l'ultima. Qual è la ragione di questa mia paura? Perché? Non ho paura degli animali, né della foresta. Il luogo è sicuro.